Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Questo è il cammino di... Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Andiamo. Ma se io oggi volessi... Sì, dai. Ma se io oggi volessi... Ma se io oggi volessi... Gigi? Oggi volessi... A cosa? Non mi ricordo cosa dovevo dire. Attraverso questo cammino, potete lanciare il vostro pensierino. Ok. Ma che sta a fare? Ma che stiamo a giocare qua? Non va bene così. Non si può giocare. Dai, fai l'annuncio, lavora. Se volete mandare le vostre dediche. Non mi sento molto bene. Se volete mandare le vostre dediche, il numero di SMS. SMS è 333-64-67-662. Pochi giri di vinile, inconfondibile lo stile. Vabbè, yeah. della musica e regista, regista, regista, regista, regista. Questo è Gigi, il folclorista. Il folclorista. Il folclorista. Il folclorista. Il folclorista. Scusate se vi ammacco il pitone. Vi leggo una citazione. Il miglior modo di predire il futuro è inventarlo. Ciao. Alan Kay. Tiempo. That you are, how do you find us?

più. Chica, ¿cuál es el nomínio de este programa musical mental? Esta es la siesta. Chica, explícame el nomínio o te giro la caviglia sola, pota. El camino de Gigi D'Agostino. Ogni giorno all'ora siesta. A cosa? Cammino di Gigi D'Agostino, oggetto. Rallenta. Più piano. Ce la puoi fare. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. No, perché mi piace essere chiaro. Sono un uomo diverso, sono un po' perso, ma questo è il mio universo. Le rime c'erano. Ah, e cazzemma. Andava bene. Hai una qualche questione irrisolta, un fatto anomalo, un qualche tipo di problema, te lo risolvo io. Scrivimi al 333-6467-662. Prova a risolvere, ma non ammalandoti, ma confrontandoti. Qui, se vuoi, puoi fare la tua protesta contro qualsiasi tipo di ingiustizia. Scrivi qui. Il cammino di Gigi D'Agostino, 333-6467-662. Fai sentire a tutti le tue imprecazioni. E ma porca la bastarda. Non così, meno. E ma porca la bastarda. Neanche così, leggermente meno. Gina mi ha lasciato una troia. Leggermente meno, non siamo al frantoio comunale. Musica allo stato puro. Il cammino di Gigi D'Agostino.

suoni e colori per bimbi e genitori. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. A proposito di appuntamenti in discoteca. Sì, dai. Per maggiore informazione basta cliccare www.gigidagostino.com pom pom parom parom pom, oppure www.gigidag.com. Aripom parom parom pom. Vai nel forum e comincia a cercare. Se non trovi, ti fai aiutare. La spiegazione è finita. E viva la vita! Oh, fermalo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Giorno, ore 18, M2O, il cammino di Gigi D'Agostino. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Una camicia, una panchina danzante. Sì, sì. Toha, pa, togi e si escama. Togi e si escama. regali le vostre dediche. Il numero di SMS SM è 333 64 67. A cosa? 662. Va bene così? No. Non va bene così. Vai, G, aiuto. 3 3 3 6 4 6 7 6 6 2. Bella Gigio, stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. I drive around all day long, I listen to radio songs, I'm taking heart to become what you want for your life. I stop and talk with you, a little help from the moon, only a few words I will say, God help me, I have to pray. Your eyes are deep in my heart, you want for your life. Shine on you crazy diamond ring, don't you wanna marry me? In my heart the drum, there's only in my hell to come. I'll take you home with me tonight, we'll get married in my dreams. Take me far. Scelto questo mondo che esplora altri mondi, sì, sì, e che crea un suo mondo fuori dal mondo. Muoviti. Grazie anche ai miei due collaboratori Elena Tanz e Luca Noris, e ci sono anch'io, grazie anche a me. Noi tutti, io, loro e voi, ci troviamo qui domani alle 18. Non giochiamo.